Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Meloni, mi scusi, ecco. Si è ripresa dal bagno di folla? 100.000 persone in Piazza Maggiore a Bologna, l'ha scritto Salvini su un tweet, un successo pazzesco. C'è qualcuno, Meloni, che ha fatto il calcolo, la piazza è 115 metri per 60, significherebbe 23 persone a metro quadro. Meloni, ma era una manifestazione? Meloni. Se non destruire solo a guardare. Un po' complesso. Cioè 23 persone in un metro quadro non ci stanno nemmeno liofilizzate. La questura ha detto al massimo ce ne erano 15.000. Sta questura, sta questura. Cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:31 minuti. Brutte notizie da Napoli. Sto cuore ingrato più di spiette, farmè non può. Addollo fuoco coce ma si fuglie e lascia sta. Brutte notizie per il governatore De Luca. Copri a Priesse non destruire solo a guardare. Tale Miguel Gotor. Miguel Gotor. Io pensavo sinceramente che fosse un ballerino di flamenco, un tanghero. È quello che ha lanciato per aria il grido di dolore più straziante. Gotor. Un grido di dolore che si è Gotor. Si è diffuso. Quando diciamo, abbiamo mandato questo audio ci hanno scritto: ma avete mandato Crozza invece di De Luca? No, questo è De Luca, veramente. De Luca è indagato. Su tutti i giornali la notizia politica del giorno è questa: De Luca è indagato. La sentenza che lo ha lasciato lì governatore della Campania, la legge Severino, sapete, potrebbe essere stata truccata. Questa è l'accusa terribile a Roma. Ieri, o meglio l'altro ieri, improvvisamente il capo della segreteria di De Luca, tale Mastursi, che peraltro è vicepresidente del PD in campagna, si è dimesso di colpo. E tutti a dire: ma come si è dimesso di colpo? Ufficialmente per stanchezza. E invece erano le premesse dell'inchiesta che è venuta fuori. Cioè il capo della segreteria di De Luca, Mastursi, avrebbe, come dire, contattato il marito della giudice che ha deciso della sentenza di De Luca, marito che è un dirigente della sanità in Campania, che gli avrebbe anticipato la sentenza. Insomma, adesso è tutto da chiarire, ma l'accusa è quella. È chiusa, poi è tornata, poi è venuta, sta sempre a casa. Insomma, l'accusa di avere contattato, corrotto un magistrato, sono tutte domande che uno fa e sulla quale la Procura di Roma ora dovrà indagare. Avere dato al marito della giudice una promozione nella sanità in cambio di una sentenza pilotata, di notizie sulla sentenza? Chi lo sa, chi lo sa. Yamma, Come ha reagito De Luca? Beh, sul Corriere della Sera c'è una frase attribuita a lui, a dire: dedicherò a questa vicenda 15 secondi e non di più. Personaggetti voi. Allora, cari amici, Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, qui siamo a 24 mattino, siamo e belli svegli. Eccola lì. Paola by night. Inesorabilmente appena finito la trasmissione di Paola by night con questo tono. Buongiorno. Buongiorno Paola Saluzzi, eccola qui direttamente da Sky. Pronti, siamo pronti per queste odissee che viviamo. Ah, mamma mia, ogni giorno c'è una pena, ogni giorno uno apre i giornali. Adesso pure l'olio d'oliva, forse non extravergine, ci rifilavano come tale. Così indaga Guariniello. Pure l'olio d'oliva taroccato. Vabbè. Non ci sono più gli olivi di oliva di una volta? No, non lo so. Capiremo, non ci sono più gli olivi di una volta, soprattutto. Capiremo anche lì, oramai dobbiamo dire capiremo. Insieme alla nostra Paola Saluzzi c'è il nostro super mega dir Luca Dini. Buongiorno. Direttore di Vanity Fair, eccola. La vera sigla. Luca non si saprà mai. È adorabile. È terribile. È la sigla terribile che si è auto imbollinato sulla fronte, ricordiamolo sempre, ricordiamolo. La chiamò lui, dice: no, c'è una famosa che dice Luca di Raffaella Carrà, eccola lì. Certe sere a casa di grazie. Questa è la sigla preferita vera di Luca Dini. Allora, siamo qui con Luca Dini e Paola Saluzzi e con voi, cari amici, al 349-238-6666, se volete raccontarci cosa state facendo. Noi apriamo il Parlamento intanto. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. No, non lo so, questa vicenda... Non lo so, adesso sui giornali è così, Vincenzo De Luca indagato, io non lo so se avete delle idee, ma sul personaggio vi chiedo, tu già Luca avevi detto che non ti piaceva tanto, no? Questo suo modo spigliato. No, detto questo, vabbè, ovviamente questo non ha niente a che fare con la vicenda in questione, che essere indagato, lo ricordiamo, non vuol dire niente, però vorrei dire, ma cavoli, è possibile che un dirigente della sanità sia marito di un giudice. Giudice che può intervenire su una cosa del genere. Cioè, non ci dovrebbe essere una legge per cui due persone, se a un certo punto si sposano, uno dei due rinuncia a qualcosa. Sicuramente io lo trovo abbastanza normale, perché poi si fa così, cioè ci si dà una mano, no? Cioè, non mi stupisce, però effettivamente la questione è posta, perché il giudice che ha deciso ha un marito che è dirigente della sanità in Campania, la regione per cui deve decidere del destino del presidente. Effettivamente qualche rischio c'è, voglio dire. Dopodiché non è che si può vietare a uno di fare il dirigente della sanità in Campania. Ma forse sì. Secondo me forse sì. Essere sposati non è, voglio dire, ci dovrebbero essere delle regole da questo punto di vista. Io figurati, lo farei anche nelle aziende. Anche nelle aziende private, cioè dici, se hai un ruolo incompatibile, ma fino a dove si può arrivare? Perché uno, voglio dire, dice. Fino a stabilire che quando. Che uno dei due decide di fare altro, Qui la questione che tu, Paletta, ne parlerai forse oggi. Affidare, sicuramente su questo tema saremo oggi. Oppure affidare. Determinate inchieste, non so come dire. Esatto, c'era sospeso da quella cosa lì. Di stabilire guardando l'albero genealogico, insomma, familiare. Un tempo credo che fosse così, quantomeno in aziende pubbliche, no? Che non potessero lavorare moglie e marito, però forse ancora più di questo, anche se comprendo le ragioni che sta esprimendo il direttore, capire a chi come affidare questo tipo di analisi, ricerche. No, ma è chiaro, forse scegliere, scegliere un giudice che non ha un barito lì, cioè insomma, togliere tutte le condizioni per cui questa è l'accusa, perché poi questa è l'accusa che è venuta a Roma, e cioè che tale Mastursi, cioè il capo segreteria di De Luca, avrebbe chiamato il marito del giudice che doveva decidere, e il marito avrebbe chiesto un favore in cambio di far avere notizie in anticipo sulla sentenza. Ora, tra l'altro, poi notizie in anticipo oppure intervenire direttamente sulla moglie a dire decidi così, insomma, questo è il contesto in cui è maturato. Se erano solo notizie in anticipo, devo dire complimenti a questo Mastursi. Sì, sì. Mastursi, il cui profilo è raccontato da alcuni giornali, noto per avere preso a calci un giornalista una volta quando si stava facendo le lezioni su De Luca, e un'altra volta potrebbe essere un punto a favore. Luca, sei un giornalista pure tu, adesso fai una esatto, una seconda volta sarebbe stato fermato mentre stava prendendo a calci una giornalista. Questo non si può fare. Qualche problema col concetto della notizia. Esatto, ma voi immaginate Paola Saluzzi che va lì: scusi De Luca, ti prendo a calci, ma io lo vado, lo andiamo a pigliare a pugni noi, ma insomma. Oh, adorati, ma come siete belli. Bene. Sapere a metà settimana di avere cotesti moschettieri, ma certo, cotanti, anzi, è già un punto a favore. Insomma, anche come amo dire, studieremo e capiremo anche questa storia. Studieremo e capiremo. Comunque si ricomincerà con Rosi Bindi che già riderà, De Luca che mostrerà la mascella dicendo questi più di 15 secondi. Personaggetti. Va bene, dai, sentiamone un'altra di De Luca. Noi lo vogliamo ricordare per il frattempo così. È una specie di circo equestre, ognuno si alza la mattina e dice quello che diavolo vuole. C'è in particolare una componente politica, quella dei grillini, che è specializzata nella presentazione di ricorsi. Ecco, sulla loro lapide metteremo: presentarono 1000 ricorsi. Questo è un De Luca dannata che abbiamo pescato quando l'ho invitato qualche tempo fa sui grillini. Poi cosa ha detto su Rai 3? Tranquilla Paoletta, no, su Sky non ha detto niente. Non lo so, tuttavia su Rai 3, sentite su Rai 3. Noi abbiamo in Italia un singolare privilegio, abbiamo una rete pubblica televisiva, Rai 3, che, come io ho già sostenuto in altre occasioni, è la più grande fabbrica di depressione al mondo. Mi hanno detto che hanno fatto un altro servizio, le vicende giudiziarie, niente di nuovo. La più grande fabbrica di questa è un suo gran classe. Vincenzo De Luca. Ma vi vorrei far sentire un altro De Luca, questa volta Harry. Ecco, in questo caso voi come l'avete presa la vicenda di recente? Bene, abbiamo parlato anche qui. Tu, Paola, come ride? Con Harry De Luca? Ma guarda, noi abbiamo, come dire, seguito, ma come tutti, però, insomma, nel nostro caso, in diretta, questo momento della sentenza, e quest'uomo era commosso, sollevato, inequivocabilmente, com'è nel suo stile, ha creato un solco, no? Magari un solco che divide le persone di pochi centimetri, chi sta dalla sua parte, chi guarda quello che lui ha fatto. Il personaggio non è semplice, e al contempo è uno che si è sempre caricato sulle spalle tutte le sue responsabilità. Sì, sì. Se leggi il libro che lui ha scritto in questo frangente, insomma, lui è una persona che dà da pensare, nel senso, non che debba farsi occupare quello che dice o quello che fa, anche se inequivocabilmente bisogna capire, è una persona che comunque si assume sulle proprie spalle completamente la responsabilità di ogni cosa che viene detta. Questo è Harry De Luca. È stato assolto, lo sappiamo. Tu, Luca Dini, avevi sul processo, ci siamo, non ricordo la posizione, ma insomma. No, forse non avevamo parlato. Guarda, allora, sulle cose che lui aveva detto io non sono d'accordo personalmente. Non sabotare la TAV. No, il processo ho trovato ridicolo. Assolutamente ridicolo. In questo paese proprio è ridicolo. cioè, non, secondo me non si processa una persona per quelle parole lì. Sì, sì, sì. No, ma su questo sì. Però Harry De Luca è intervenuto sui sabotatori di Bologna, no? Quelli che hanno. Sì. E la posizione di Harry De Luca, quelli che hanno cercato di contrastare Salvini, così magari parliamo anche di che ne pensate di questa vicenda. Ebbene, sentite De Luca che ha detto. Harry, Quelli di sabato sulla linea Milano-Bologna credo che non abbiano niente a che vedere col movimento di resistenza più che ventennale della Valle di Susa. Quello è un danneggiamento che non andava da nessuna parte, tranne che danneggiare il trasporto di persone che ne avevano bisogno di quella linea. Quindi sarà d'accordo con Salvini che dice che per i sabotatori ci vuole il carcere e che sono dei delinquenti? Beh, certo, ci vuole. Non si può fare diverso, insomma, se si mette a scassare delle cose poi le paghi. Hai capito? Harry De Luca che sta con Salvini, e questa, Beh, non sta con Salvini. No, non sta con Salvini, cioè, ha detto... Stavolta ha ragione, secondo te questa volta ha ragione, assolutamente, sacrosanta. Cioè, perché... Che quelli dice, che lavorano contro la TAV in Val di Susa ragionano su un discorso molto più ampio. Sì, mentre questi sono sabotatori. La sua vita, eccetera, eccetera, eccetera. In questo caso, perché... La domanda? È chiaro. No? Quindi più che stare con Salvini, sì, sta con una forma di, definiamolo, buonsenso. Mm-hmm. E forse detto da lui vale ancora di più. Sicuramente. Sì, ma infatti devo dire che effettivamente. Poi da questo farne un leghista della. No, ma no, però fa un po' specie dire in questo ha ragione Salvini, vanno presi e messi in carcere. Tra l'altro, Salvini, tra poco ve lo dirò, su Repubblica c'è una notizia che riguarda Salvini, c'è solo su Repubblica. Sapete che Salvini voleva andare in Israele. Gli hanno negato l'entrata ad Israele. Questo in Israele non può andare probabilmente per i legami con alcune formazioni considerate neonaziste da parte di Israele. E quindi, interessante questo. Intanto mi chiedono, c'è Giulia che mi scrive: è cominciata male oggi, sono qui in mezzo a pentole, piatti e bicchieri da lavare. E vabbè, Giulia, però c'è Paola Saluzzi e Luca Dini. Cosa devi fare? A proposito, Paola, mi chiede un ascoltatore: puoi chiedere a Paola nel caso divorziasse anch'io lo farei? Poi dopo la storia successiva è da riscrivere. Cioè, caro ascoltatore, non è che se divorziate tutti e due per forza va a finire automaticamente. Non lo farò mai, per una legge regionale, non lo so, vi mettete insieme. Ma gli ascoltatori sono così, vivono di sogni. Dai, il traffico, poi rientriamo. A Milano, mi vedo sentire il traffico, dai, sci, dagli una botta. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Mila, io sono convinto che gli italiani non sono scemi, sono gente che capiscono. E dicono tutti, parlando così al bar dove ci troviamo, se non rubano più al governo, noi paghiamo le tasse, altrimenti non paga più nessuno. La devono smettere di rubare e abbassarsi i stipendi in metà di quando prendono sta gentaglia. Ciao Alessà, si parla tanto di questi vitalizi, no? Tu che sei tanto bravo a fare statistiche e cose, no? Perché non fai una graduatoria di questa gente che ha campato e campa ancora alle spalle degli italiani? Senta Lino, bel figlio, fammi capire perché la sera punti la sveglia 6:30 della mattina per sentire tuo ball. Questa signora con i sottotitoli dice: mi fai capire perché punto la sveglia alle 6:30 per sentire le tue balle alla sera? Non lo so. Ma perché so. Amore, signora, ma sarà amore per l'informazione, per la vera sarà razza, una malattia, però non guarisca mai, cara signora, finché lei non guarisce noi qua stiamo bene, diciamo, male suo e bene con nostro. Alino si inizia la giornata in un'altra maniera. con Alino un buon mattino. Ma siamo sulla creatività. Oggi, tra l'altro, vi segnalo un'intervista a Franco Battiato, il maestro, quando fa le interviste sul Fatto Quotidiano. Che sta facendo il falegname lì? No, ero io. Sto facendo sempre giocare il gatto. No. Ah, il gatto, pensavo stessi appendendo un quadro. Sì, che la scorsa settimana ci ha fatto un editoriale. Mano contro il cuscino. Come si chiama? Faccelo ancora. Caterina? Caterina. Chiamala un po', Caterina. Ma sta correndo come una pazza. Quando hanno i momenti, come no? La notte. Sì, certo. Quando hanno i momenti di pazzia, certo. Dicevo, c'è questa intervista a Franco Battiato che ha detto: io ho avuto qualche relazione con le donne, ma solo il pensiero del matrimonio mi fa venire voglia di spararmi in testa. Così Franco Battiato. Vabbè, il maestro non si tocca, Franco Battiato. No, il maestro non si tocca, per carità, sta bene così, anche non sposato. Gli chiedono anche: ma lei è più di destra o di sinistra? Io sto sopra. Ma Battiato, ma è un gigante. Io sto sopra. Meraviglioso. Allora, che ne pensate di Salvini non grato in Israele, caro Luca? Questa è una bella botta, te l'aspettavi? Chi la fa l'aspetti. Ecco, eccolo lì. Lo so, non ti Sai, voglio dire, certe frequentazioni, certe aperture poi fanno pensare che qualcuno sia tollerante verso dei ritorni di fiamma. Sì, dei ritorni di fiamma. In questo caso è azzeccato, insomma, la fiamma. Il dato di fatto è che Repubblica da questa notizia, stiamo a vedere, forse sono più i legami con forse la Le Pen, gruppi. Ma sicuramente, è una questione, voglio dire, che penso che vada oltre i confini nazionali. Gli ungheresi, insomma, correttamente, esatto, su costruttori di muri, su Marine Le Pen, che per quanto separata e distintasi dal padre e dai cani del padre, che le mangiano il gatto. A proposito di gatti, ricordiamo anche questo. È vero, i cani del padre della Le Pen, che ha mangiato il gatto. Che hanno divorato anche i gatti della Marine, ma al di là di questo, insomma, in Europa ci sono persone. Vi cito una cosa che esiste a Roma, come esiste in altre capitali europee, ci sia anche a Milano, credo, e in altri luoghi. Le pietre d'inciampo. Ieri andavo dal mio dentista e vedo due persone deportate il 16 ottobre del 1943, quando ci fu la grande razzia al ghetto di Roma, e morte ad Auschwitz il 22 ottobre del 1943, cioè il tempo di passare 6 giorni di tra viaggio e chissà, Dio solo sa che cos'altro, e due persone, ma dovunque tu vada ci sono portoni dove ci sono questi stampietrini in ottone lucidati che dicono qui e qui. Ci fu anche una persona che disse che trovò il caso di rompere il tutto di notte, non voleva avere questa cosa davanti casa. Nonostante questo abita ancora lì. Stampietrini in testa. Però io qua mi devo fermare, purtroppo, perché non c'è più tempo. Ricordo il numero di Vanity Fair: c'è una Naomi Campbell straordinaria, ma anche in copertina, ma un'intervista a Justin Bieber. Mi dici in 10 secondi, Luca Dini, cosa pensi delle seguaci di Justin Bieber? Forza. No, non ragazzo, dai. Non rischi. Un'intervista a Justin Bieber su Vanity Fair e non rischi al direttore. Ma mi devo fermare, vi ringrazio tantissimo. Paola Saluzzi, che alle 15 è su Sky, e Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Ci ritroviamo alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta... 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici miei, forza cari ascoltatori che vi crogiolate tra le lenzuola o vi attardate nelle vostre interminabili colazioni.